Smart City, la città intelligente. Buonasera da Maurizio Melis. In vista di Expo 2015, che sarà centrata, come sapete, sui temi dell'agricoltura sostenibile, lunedì scorso a Milano si è tenuto il World Forum on Bioenergy Challenge, organizzato dal CCR, dal Ministero dell'Ambiente, dalla Regione Lombardia e appunto da Expo 2015. Nel corso di questo convegno si è fatto il punto sulla sostenibilità dei biocombustibili. Parliamo soprattutto di biodiesel e bioetanolo. E purtroppo, dobbiamo dirlo, non ci sono buone notizie. Ne parliamo con Giovanni De Santi, direttore dell'Istituto Energia e Trasporti del CCR, appunto, che è il centro comune di ricerca della Commissione Europea. Buonasera De Santi. Buonasera a lei. Dunque De Santi, a sedere sul banco degli imputati c'è sostanzialmente l'effetto ILUC, Indirect Land Use Change, quindi cambiamento indiretto nell'uso del suolo. Ci ricorda in che cosa consiste? Sì, l'effetto ILUC significa tener conto, quando si va a giudicare sull'accettabilità di un biocarburante, significa tener conto di quanto questa produzione, questa nuova produzione, abbia inciso sulla produzione per la catena alimentare umana, perché le terre che vengono sottratte alla produzione di alimenti vengono adesso utilizzate appunto per la produzione di biocarburante, e quindi questa mancata produzione di alimenti per la catena alimentare umana deve essere compensata andando a estendere l'utilizzo, quindi l'agricoltura viene estesa a territori che prima non venivano utilizzati, e questa estensione significa avere un addizionale e un'emissione addizionale di effetto serra, cioè di gas carbonica, effetto serra, dovuto al fatto che quando si va a utilizzare un terreno precedentemente non coltivato, per il fatto stesso di andare a rigirare lo strato superficiale, quindi ad arare lo strato superficiale del terreno, tutto il contenuto di carbonio che era sia nel terreno sia sulla biomassa superficiale viene immediatamente rilasciato all'atmosfera. E questo è un rilascio addizionale che va aggiunto al rilascio diretto dovuto all'uso del carburante stesso. È complicato nel senso che se si va a coltivare su un terreno che precedentemente non era coltivato, certo, questo può essere una foresta, può essere un pascolo, terreno paludoso, certo, può essere un terreno arido, un terreno destinato alla pastorizia, quindi a seconda dell'uso precedente di questo terreno rilascia addizionali di anidride carbonica, quindi CO2, è chiaro che varia moltissimo e quindi dobbiamo calcolare in maniera molto accurata. Ecco, a proposito di calcolare e di dati, che dimensioni assume questo effetto ILUC e quali sono i combustibili più critici da questo punto di vista? Ma guardi, la produzione di bioetanolo, soprattutto da canna da zucchero, per esempio in Brasile, è la soluzione forse molto più sostenibile. Più sostenibile, esatto. Mentre invece la produzione di biodiesel da oli da palma, per esempio, da olio di palma, sì, o comunque da oli vegetali, diciamo che è più penalizzata. Quando si va ad aggiungere la frazione di greenhouse gas emissions dovuta all'ILUC, quello che invece è il ciclo diretto, si ottengono dei valori totali per biocarburanti e soprattutto per biodiesel che possono risultare addirittura superiore all'utilizzo diretto del combustibile di origine fossile. E certo, a volte c'è, cioè, insomma, il biodiesel in realtà ha delle emissioni di carbonio alle spalle che sono più elevate del gasolio. Eh sì, tutto dipende, ripeto, dal terreno sul quale io vado a estendere, certo, la produzione di questi biocarburanti che prima invece non erano coltivati. Se è un terreno arido, tanto e tanto, ma se è un terreno, ripeto, ricco, come per esempio potrebbero essere terreni paludosi, per esempio nell'est della Cina, nella Malesia, eccetera, potrebbe effettivamente portare degli effetti secondari ad aggiungere gli effetti primari che sono molto significativi. Ecco, quindi insomma c'è comunque modo di contenere, per esempio scegliendo accuratamente i terreni sui quali si va ad estendere l'agricoltura. Ci sono altre modalità per tenere sotto controllo questo effetto? Beh, la Commissione Europea ha messo fuori dei criteri per la sostenibilità, quindi per l'accettazione di questi biocarburanti. Uno è quello che non possono essere prodotti su terreni, per esempio, da foreste, quindi non certo, si può deforestare per produrre biocombustibili, per produrre biocarburanti, oppure da terreni, diciamo così, particolarmente importanti per la vegetazione, per la fauna. Comunque vi è un criterio molto semplice, che per essere accettato un biocarburante come tale deve comportare una riduzione delle emissioni di gas serra del 35% rispetto all'utilizzo del combustibile, diciamo, di origine fossile. Questo oggi secondo la normativa europea, ma senza tener conto di quell'effetto ILUC, di cui questa è, come dire, la regola oggi, che però non tiene conto dell'effetto ILUC. Sì, no, si sta studiando all'interno della Commissione, stiamo studiando come tener conto di questi effetti addizionali cosiddetti indiretti, e praticamente vi sono due possibilità. La prima possibilità è quella di aumentare questa soglia e quindi chiedere, anziché un 35%, aumentarla, arrivare a un 40, 45, 50%, in modo da garantirsi che almeno una gran parte di questi biocarburanti siano esclusi. Il passo successivo che potrebbe venire fatto, quindi affinare un po' questa metodologia, è andare invece a definire carburante per carburante quali sono i criteri di accettabilità, e quindi distinguere fra il carburante, ripeto, il bioetanolo piuttosto che il biodiesel prodotto dall'olio di palma che viene importato da una certa parte del mondo, e quindi il passo successivo sarà quello di, come dire, raffinare. Certo. Ecco, senta, diciamo che questi problemi sono grossissimi con la prima generazione di biocombustibili. Però ce ne arrivo la seconda, anzi questa sta per esordire sul mercato, poi si guarda già alla terza. Lì ci troviamo delle risposte a questo problema dell'ILUC o non cambia niente invece? No, passando alla seconda e terza generazione il problema dell'ILUC sparisce, perché la seconda e terza generazione significa produrre i biocarburanti non da residui, per esempio residui della foresta, residui dell'agricoltura, residui anche della catena alimentare, quindi ci sono già, e sfruttando questo è chiaro che uno non va a incidere sull'utilizzo delle terre agricole attualmente già in essere, oppure addirittura dalle alghe, che quindi vengono prodotte non sul terreno ma in acqua, e quindi è chiaro che non va di nuovo a incidere sulla produzione di alimenti per l'uomo. Grazie Giovanni De Santi. Prego, arrivederci. È tutto, a domani.